Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e vi parla Daniele Biacchisi. È l'ultima puntata del viaggio di Italia in controluce verso le prossime amministrative 2012. In particolare la puntata odierna è girata a Parma, dove la giunta di centrodestra è ormai entrata in crisi e cresce la protesta popolare per numerose inchieste di malaffare. Il reportage di Cristina Carpinelli. Il prologo di questa storia ha inizio e ruota attorno alla persona di Pietro Vignali, il giovane sindaco di Parma, di area berlusconiana, che, alcuni dissero, si era incollato alla sedia da sindaco e ai giornalisti raccontava così. No, non vedo le ragioni per cui dobbiamo dimetterci, nel senso che c'è stata un'indagine a Parma che ha portato all'arresto di tre dirigenti comunali per dei fatti estremamente personali e quindi la responsabilità penale è personale. Non vediamo cosa debba centrarci la giunta o il sindaco. Vignali voleva stare in poltrona, ma attorno a lui tutto franava e i cittadini lo aspettavano fuori dal portone del comune parecchio inalberati. Ma cosa era accaduto a Parma? Dopo svariati rimpasti e tentativi, l'esecutivo viene via via coinvolto nello scandalo Tangenti Green Money. Si parla, tra tangenti e appalti truccati, di un buco di oltre 700 milioni di euro. Il colonnello della Guardia di Finanza, Guido Mario Geremia, ha seguito l'inchiesta. Sentiamolo al microfono di Raffaella Calandra. Le tre indagini hanno evidenziato dei fenomeni di corruzione abbastanza perniciosi, considerato l'ambito in cui stiamo ad operare, cioè la pubblica amministrazione. In tutti e tre i casi dei funzionari, dirigenti infedeli, d'accordo con imprenditori operanti nei vari settori, parliamo di verde pubblico, mensa scolastica e altro, raggiungevano l'accordo per sottrarre e quindi intascare illecitamente i soldi. È il più grande scandalo per una giunta del comune di Parma dal 1975. Allora furono arrestati dirigenti comunali per corruzione legata ai partiti socialisti. Anche allora la gente scese in piazza e manifestò con le lenzuolate. Oggi, che ci si appresta ad andare ad elezioni, che cosa succede in città? I candidati al ruolo di sindaco sono per il PD Vincenzo Bernazzoli, che ha vinto le primarie del partito. Quali sono, gli abbiamo chiesto, le priorità per Parma? Primo, la messa in sicurezza del bilancio di quel comune che è stato scassato dall'amministrazione precedente. Consolidamento del debito, ristrutturazione e gestione appunto della riorganizzazione della macchina comunale. Secondo, l'impegno a cercare di mantenere alti e di qualità i servizi alla persona, pur cosa non facile a Parma, che gode di un'ampia diffusione dei servizi di un buon livello, non è facile in una prospettiva di anni in cui le risorse pubbliche saranno fortemente ridotte. E quindi la necessità di una ridefinizione pratica del sistema di welfare con un forte coinvolgimento del privato sociale e anche una messa a sistema del volontariato. Terzo, abbiamo la necessità di riorganizzare anche il tema dell'economia e del lavoro, puntando molto sul tema della ricerca e della innovazione, in particolare nel settore dell'agroalimentare e delle scienze della vita, che vedono a Parma punto di riferimento a livello internazionale, che noi vogliamo venga ancora di più consolidato e sviluppato. Come potrà dare fiducia al suo elettorato? Cioè su che cosa si può fare leva per dare fiducia all'elettorato, soprattutto come l'elettorato di Parma, che è stato veramente toccato? Io le potrei dire che si vedeva plasticamente dalle espressioni del viso nelle assemblee che ho fatto durante le primarie, ne ho fatte più di 20 incontrando centinaia e centinaia di persone, lo schema era sempre lo stesso: all'inizio una certa freddezza, un certo distacco, e poi nel momento in cui capiscono che tu sei lì per dare una mano, che non hai altri fini, che sei concreto, che sai di che cosa parli e che sei a disposizione, cambiano le espressioni dei volti. È come se ritrovassero un filo che era andato smarrito. Io credo che una città come Parma, che ha 180.000 abitanti, vada ripresa la fiducia partendo da lì, cioè dal basso. Si muove piccola ma agile la lista civica Parma Bene Comune, che ha come candidata Roberta Roberti, una delle donne più attive nel denunciare le truffe della giunta. Oggi le chiediamo che cosa bisogna fare come priorità per la città di Parma. Sicuramente per noi il tema principale, come dice il nome stesso del nostro movimento politico, sono i beni comuni, cioè riportare l'attenzione sul bene comune, che non è bene pubblico, proprio perché noi pretenderemmo di trovare una strada per far tornare collettiva la gestione di quelli che sono i beni comuni, materiali e immateriali, quindi dall'acqua fino ad arrivare alla conoscenza, alla scuola, l'informazione, i servizi. In questo senso l'obiettivo è quello di cominciare gradualmente ad introdurre dei meccanismi che permettano la realizzazione della democrazia partecipativa, come per esempio l'assessorato alla partecipazione ai beni comuni, simile a quello che è stato fatto a Napoli, oppure la introduzione del referendum sia propositivo che abrogativo nello statuto comunale senza quorum, in modo che sulle grandi opere soprattutto sia possibile avere una, cioè sia obbligatorio consultare i cittadini, che si ritroveranno, come ci stiamo ritrovando noi in questo momento, impegnati non solo con enormi debiti ma con lavori da finire per anni, e quindi è giusto che vengano interrogati sulla utilità o meno di queste grandi opere che devono essere messe in cantiere. Lei, andando in giro, facendo proprio campagna elettorale, sta sentendo che le persone di Parma sono interessate al suo profilo, al suo ruolo, alla lista civica? Io ho due percezioni. La prima è che effettivamente ci sia moltissima voglia di voltare pagina, di cambiare rotta, ma in maniera radicale, cioè non viene più accettato il messaggio della politica istituzionale che ti promette con belle parole di fare delle cose e poi le traduce in azioni che vanno nelle direzioni opposte. Esempio classico: l'acqua, che dovrebbe essere, grazie all'esito dei referendum, tornare pubblica, che è una delle cose che noi vorremmo fare qui a Parma, e invece, come vediamo, la politica sta cercando di andare nella direzione esattamente opposta. Questa è la prima percezione. La seconda percezione è invece quella del non voto, cioè che moltissima gente nei negozi, in giro per strada, ma persone che io non conosco, che comincia a conoscere le nostre posizioni, mi dice: meno male, perché se non ci fosse stata un'alternativa come la vostra io non sarei andato a votare. E c'è un sacco di gente che non sarebbe andata a votare. Per quanto riguarda il centrodestra, invece, molti si chiedono se ci saranno le primarie per scegliere il proprio candidato sindaco. Per ora nessuno si è espresso. Pesa molto la certezza della corsa solitaria della Lega Nord. Era Italia in controluce, seconda edizione. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.